Giovani Talenti di Sergio Nava. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. Ricerca scientifica e fuga dei cervelli, questo è il tema che fa da sfondo alla nostra puntata odierna che abbiamo voluto dedicare agli scienziati oltreoceano. Sono infatti davvero tanti i ricercatori e i professori di area scientifica, sia under che over 40, che sono andati a formarsi e a lavorare negli Stati Uniti. Un'emigrazione che favorisce sicuramente la circolazione dei cervelli e dei talenti, in sé qualcosa di positivo, ma che diventa, ahi noi, profondamente negativo quando non si traduce in un flusso al contrario. E questo, statistiche alla mano, è esattamente ciò che avviene per l'Italia, mera esportatrice di cervelli. In questo percorso di indagine oggi ci accompagnerà l'ISNAF, la Italian Scientists and Scholars in North America Foundation, la maggiore organizzazione scientifica italiana negli Stati Uniti. Ma tu, a poco più di 30 anni, una posizione del genere in Italia la potevi sognare? No, è praticamente impossibile. Era possibile, io guardando un po' le statistiche, ai tempi dei nostri padri, a quell'epoca c'erano degli ordinari che diventavano professori ordinari addirittura trentenni. Adesso credo siano solo 8 i professori ordinari in Italia sotto i 35 anni. Riccardo Lattanzi, 34 anni, ricercatore e assistant professor di radiologia alla New York University School of Medicine, è uno dei nostri giovani cervelli più brillanti oltreoceano. Ora spazio al notiziario. Niente più lavoro, neppure lontano da casa, così giovani e donne in 40.000 nel gennaio 2009 sono tornati al sud. La crisi sembra colpire pesantemente gli emigranti precari, lo ricorda uno studio della Svimez, spiegando che a partire dallo scorso anno molti meridionali, soprattutto giovani tra i 24 e i 34 anni, hanno invertito la rotta e, dopo aver perso il lavoro nel nord o nel centro Italia, sono tornati al sud. Nemmeno l'elevata scolarizzazione li ha protetti, anzi, tra gli emigrati al nord sono i laureati a pagare maggiormente il prezzo della crisi. C'è anche Benedetto Vigna, 43 anni, inventore del sensore di movimento tridimensionale utilizzato nei comandi della console Wii di Nintendo, tra i selezionati per il premio Inventore Europeo 2010. I 4 finalisti, scelti da una giuria internazionale, saranno premiati il 28 aprile a Madrid. Si è svolta a Stoccolma la 5ª riunione dei ricercatori italiani in Svezia, circa 300 nell'intero paese. Tra gli interventi, quello della professoressa Laura Fratiglioni, direttrice del centro geriatrico del Karolinska Institutet di Stoccolma, che ha sottolineato le differenze tra Svezia e Italia. Il paese scandinavo offre migliori possibilità di sviluppo nella ricerca biomedica, esiste una migliore organizzazione nel sistema della ricerca ed è possibile accedere facilmente agli archivi nazionali. Il Consiglio Nazionale delle Ricerche lancia un concorso per trovare giovani talenti dell'innovazione tecnologica. Inv Factor, questo è il nome della competizione, è riservato a giovani tra i 15 e i 19 anni, in particolar modo agli studenti degli istituti tecnici che abbiano realizzato nuove tecnologie, scoperto idee innovative e sperimentato nei laboratori. Scadenza per le iscrizioni il 30 marzo, info al sito www.invfactor.cnr.it. E ora la rubrica Job Abroad con le offerte di lavoro all'estero. Oggi vi segnaliamo: un ingegnere di controllo alla European Organization for Astronomical Research di Garching in Germania, scadenza per il CV 15 aprile, tutte le info su www.eso.org. Un avvocato per le questioni istituzionali a Europol nell'unità affari legali dell'AIA, scadenza per il CV 26 marzo, tutte le info su www.europol.europa.eu. Una direttore dell'ufficio di collegamento della FAO con l'ONU, con base a Ginevra, scadenza per il CV 1 aprile, info su www.fao.org. Un economista consigliere economico alla European Mortgage Federation di Bruxelles, scadenza per il CV 16 aprile, tutte le info su icbc.upo.org. La storia di questa settimana di Giovani Talenti ci riporta negli Stati Uniti, una delle principali mete di emigrazione dei nostri giovani professionisti. Tra loro ci sono anche molti ricercatori. Nome: Riccardo. Cognome: Lattanzi. Età: 34 anni. Città di origine: Porto Sant'Elpidio, provincia di Fermo Adesso, di Alto Ripiceno quando me ne andai. Studi: ingegneria elettronica e biomedica. Anno in cui hai lasciato l'Italia: 2002. Per andare dove? Pittsburgh, negli Stati Uniti. Perché? Avevo vinto una borsa di ricerca Fulbright. Quale lavoro svolgi attualmente? Assistant Professor of Radiology. Dove? Facoltà di Medicina della New York University. Tornerai? Spero di sì, ma con le condizioni per poter restare. A song that will take us back to the city where everything started for me. Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. Allora Riccardo, quale migliore introduzione di un Frank Sinatra dannata con il suo lascito d'amore alla città che più ha amato e nella quale tu ora vivi, no? Sì, New York. New York immagino che sia una città estremamente stimolante sotto molti punti di vista, però c'è anche da parlare in questa puntata di ricercatori del cosiddetto tema dei cervelli in fuga. Ebbene Riccardo, secondo l'OCSE l'Italia spende in ricerca e sviluppo circa l'1,13% del PIL, sono dati del 2007, poco meno della metà della media della vecchia Unione Europea, una percentuale al di sotto pure della media OCSE. Su questi dati vorrei tornare con te tra poco, ma iniziamo a parlare del tuo percorso professionale che ti ha portato negli Stati Uniti. Allora, Riccardo, comincia a raccontare. Mi sono laureato a Bologna in ingegneria elettronica nel 2000 con una tesi in ingegneria biomedica. Poi subito dopo ho iniziato a lavorare con un contratto di ricerca presso il laboratorio di tecnologia medica degli istituti ortopedici Rizzoli e lì mi occupavo dello sviluppo e della validazione di un software per la pianificazione chirurgica dell'intervento di protesi d'anca. E nonostante il laboratorio andasse forte, la mia però era comunque una posizione precaria legata ai progetti di finanziamento dell'Unione Europea e quindi non offriva in realtà nessuna prospettiva nel lungo periodo. Su un personale di quasi 30 persone, solo uno su 5 era strutturato perché il laboratorio alla fine faceva parte dell'ospedale e non poteva assumere senza un concorso pubblico. Quindi questo fatto era stato messo in chiaro fin dall'inizio e io lavoravo con passione ma consapevole che il mio futuro sarebbe stato altrove. In realtà ero convinto che non sarei rimasto in ricerca ma sarei andato in azienda di lì a breve. Intanto anche il progetto del software andava forte e gli ortopedici a un certo punto ci chiesero di inventare qualcosa che li aiutasse a riprodurre in maniera accurata in sala operatoria quello che avevano simulato al computer. E allora a quel punto feci domanda per questa borsa di ricerca Fulbright per andare a lavorare per qualche mese all'Istituto di Robotica della Carnegie Mellon University di Pittsburgh, dove era stato da poco sviluppato un navigatore chirurgico per protesi d'anca. E così nel settembre 2002 mi ritrovai immerso nel sistema universitario americano e me ne innamorai, diciamo. E com'è stato l'impatto, Riccardo? Raccontaci. Nonostante fossi praticamente un nuovo arrivato, nessuno mi conoscesse, mi hanno affidato una scrivania, un computer, un progetto di 6 mesi e mi hanno affidato subito delle responsabilità, che un po' è quello che non succede in Italia. Insomma. Perché non succede in Italia? Perché in Italia ti trovavi invece pur titolato, pur qualificato, in difficoltà se vuoi ad avere delle responsabilità, a portare avanti delle tue idee, dei tuoi progetti? Principalmente perché il sistema di finanziamento della ricerca non è basato sui progetti. Noi lì al laboratorio di Bologna avevamo dei progetti europei, quindi avevamo delle cose da fare ben precise, ma in generale come vengono distribuiti i fondi alle università italiane è un sistema a pioggia e vengono affidati ai vari professori ordinari che poi decidono come ripartirli. E anche insomma la recente modifica che va nella direzione giusta, quello di riservare un 7% dei finanziamenti alle università più meritevoli, è un buon punto di partenza, ma in realtà credo si dovrebbe arrivare a dare i finanziamenti in base, come succede negli Stati Uniti, in base ai progetti, quindi si premia l'idea prima che venga realizzata, altrimenti si rischia che i soldi vadano ai dipartimenti più importanti che hanno già diverse pubblicazioni e quindi hanno scalato la classifica delle migliori università e prendono tutti i fondi. Tornando alla tua storia, tu ti innamori, diciamo, degli Stati Uniti, fai domanda per il PhD, dopodiché ritorni in Italia, finisci il tuo lavoro e riparti nuovamente per l'America. Perché? L'idea iniziale era quella di tornare indietro e portare con me il know-how accumulato nei mesi a Pittsburgh, invece poi ho fatto domanda, mi hanno preso e mi hanno preso in questo programma che è un programma unico al mondo, è una divisione congiunta tra la Harvard University e il Massachusetts Institute of Technology, il MIT. Quindi in realtà seguivo i corsi di ingegneria al MIT e quelli di medicina alla Harvard Medical School. E entrano 15 in quel programma, 15 persone all'anno da tutto il mondo, non avrei mai potuto dire di no. e quindi mi sono ritrovato a Boston dopo pochi mesi. E a quel punto riparte la tua carriera americana, che ti ha portato ora anche in una posizione di rilievo. Sei un assistant professor di radiologia a New York. Sì, nel 2008 ho finito il PhD, il dottorato in ingegneria biomedica. In realtà 2 anni prima che finissi avevo già questa offerta di lavoro per venire a New York. Alla fine ho deciso di accettarla e sono arrivato prima come ricercatore, come postdoc per 1 anno, e mi occupo io di tecnologie per gli ultimi macchinari per la risonanza magnetica, quelli ad alta intensità di campo. E qui a New York è uno dei centri più importanti della costa est e credo degli Stati Uniti. Lì ho lavorato e poi ho ricevuto in realtà una promozione interna, che non è cosa tipica. Comunque da gennaio di quest'anno sono assistant professor e principalmente adesso ho obblighi di ricerca e poi dal prossimo anno inizierò anche ad insegnare. Ma tu a poco più di 30 anni una posizione del genere in Italia la potevi sognare? No, è praticamente impossibile. Era possibile, io guardando un po' le statistiche, ai tempi dei nostri padri, a quell'epoca c'erano degli ordinari che diventavano professori ordinari addirittura trentenni. Adesso credo siano solo 8 i professori ordinari in Italia sotto i 35 anni. In più il percorso di carriera in Italia non è chiaro, quindi uno magari rimane nel limbo della posizione di ricercatore a vita, mentre qua adesso io so che entro 6 anni o mi promuovono o mi mandano via. Sì, diciamo, hai delle certezze, hai un percorso di carriera, come dire, predefinito. Se vali, resti e progredisci; se non vali, semplicemente fai le valigie. Questa è un po' la mentalità, forse anche cinica, americana, ma che in qualche modo funziona, soprattutto nel campo della ricerca. Correggimi se sbaglio. Esatto, ma è un bene anche per i professori stessi, perché insomma in Italia quando uno a 50 anni si ritrova non ha fatto carriera, il ricercatore un po' è demotivato e non porta niente all'università. Magari se fosse andato a fare qualcos'altro avrei fatto delle cose positive altrove. Riccardo, all'inizio di questa tua intervista abbiamo citato dei dati, i dati che dimostrano come l'Italia, nonostante i proclami, gli impegni, le promesse di stanziamento, continua a investire molto poco in ricerca, sia a livello pubblico sia a livello privato. Tu sei anche un freelance, collabori con La Stampa, collabori con Wired, quindi hai anche hai un approccio giornalistico alla questione scientifica. Quale spiegazione ti dai? Il problema del brain drain, già il fatto che viene tradotto fuga dei cervelli e non perdita dei cervelli, che sarebbe la traduzione corretta, dà un'idea di quale sia la mentalità italiana a questa cosa. Sono i ricercatori che scappano all'estero, la fuga. In realtà invece è un problema dell'Italia, una perdita di capitale umano ad alto livello, perché alla fine se uno guarda le università migliori americane hanno un acceptance rate, cioè la percentuale di ammessi del 5%. Selezionata tra i migliori che fanno domanda da tutto il mondo, e in questo 5% ci sono i migliori italiani, quindi possiamo dire che i ricercatori che vanno a fare il PhD, che vanno a lavorare nelle università americane, sono top 2-3% dei laureati italiani, e quindi è un problema abbastanza grave, e è grave soprattutto perché non c'è un flusso di stranieri che arriva in Italia. Sì, infatti manca, c'è un brain drain, non c'è un brain gain, non c'è una circolazione di cervelli. Questo è il vero problema dell'Italia, e torneremo poi tra poco anche a trattare. Un'ultima cosa, ma l'Italia tra l'altro, Riccardo, ha anche una delle minori percentuali di ricercatori occupati, cioè in pratica noi li invogliamo, i nostri ricercatori, ad andarsene. Sì, ma anche la figura stessa del PhD e del dottorando in Italia è vista spesso come un parcheggio post laurea, perché non offre prospettive future. In azienda non è una figura riconosciuta, quindi uno che fa il PhD e decide di andare in azienda viene assunto come se fosse un neolaureato, e i posti da ricercatori sono pochi, e questo è un problema, perché poi alla fine chi fa ricerca non sono i professori ordinari che sono occupati da spiegare cose burocratiche e amministrative, sono i ricercatori giovani che poi cresceranno e porteranno avanti il proprio gruppo di ricerca. Riccardo, prima di dare la linea a Strada in Diretta, la nostra domanda di rito: come vedi l'Italia dall'estero? Cosa c'è che non va? Cosa cambieresti e come? L'Italia la vedo come una vecchia automobile, inadeguata ai tempi moderni. Consuma troppo, va piano, è una carrozzeria che, diciamo, è l'apparato burocratico troppo pesante. In più ha un autista vecchio, che è la classe dirigente, che è lì da così tanto tempo che ormai pensa che la macchina sia sua. E ovviamente l'autista non vuole una macchina più moderna, perché sa che non saprebbe guidarla e dovrebbe farsi da parte. Quindi c'è una generazione, quella degli italiani tra i 40 e i 55 anni, che rischia di saltare il turno, e c'è la generazione dei più giovani che si trovano con barriere altissime all'ingresso del mondo del lavoro, e poi sono disillusi perché non hanno più dei modelli da seguire, e quindi i loro miti diventano i concorrenti del Grande Fratello e cose simili. E questo un po' sta facendo diventare l'Italia un paese senza speranze, che guarda al passato glorioso dell'Italia, la cultura, Galileo, Fermi, per rimanere in tema scientifico, e non si accorge che il mondo va avanti. Litigano su 800 milioni per la banda larga e poi sperperano denaro denaro pubblico per le comunità montane in riva al mare e altre assurdità. Io tante cose vorrei cambiare, ma riassumendo, forse tre cose vorrei che ci fossero in Italia: selezione, pari opportunità, accountability, che è un termine che in italiano neanche esiste, in sostanza significa chi sbaglia paga. Tu manager o professore vuoi assumere il figlio di un amico o un parente, bene, ma se poi lavora male ne rispondi tu con riduzione dello stipendio o licenziamento. In America funziona così e va bene. Grazie Riccardo per questa splendida riflessione. Giovani talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta ogni settimana le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente. In questa puntata parliamo della vicenda di Riccardo Lattanzi, 34enne laureato in ingegneria elettronica con indirizzo biomedico a Bologna, dal 2002 negli Stati Uniti, dove ha avuto una brillante carriera da Pittsburgh a Boston fino ad arrivare a New York, dove è assistant professor di radiologia e lavora come giornalista scientifico freelance per alcune importanti testate italiane. E facciamo ora un coast to coast istantaneo, andiamo in California. Marisa Roberto, professoressa di neurologia allo Scripps Research Institute di San Diego. Beh, cosa si prova a ricevere un premio da Barack Obama in persona? È stata veramente un'emozione fortissima, perché il Picasa Award, che viene conferito appunto dal Presidente degli Stati Uniti, è uno delle più alti riconoscimenti qui negli Stati Uniti, per cui essere lì nella Casa Bianca e stringere la mano a Obama è stata veramente un'emozione indimenticabile. Tu l'hai ricevuto a gennaio questo premio, vero? Sì, il 13 gennaio. Per cosa l'hai ricevuto? Ricordacelo. L'ho ricevuto per i miei studi sull'alcolismo e le sostanze d'abuso, perché questi sono i miei studi. Io studio gli effetti di droghe sul cervello, come i neuroni vengono danneggiati dal consumo eccessivo di alcol, nicotina, marijuana, eccetera. Allora, con Riccardo e con Marisa, entrambi, lo ricordiamo, siete membri della Italian Scientists and Scholars in North America Foundation, che l'acronimo è ISNAF, ma raggruppa, diciamo, molte delle menti degli scienziati, dei ricercatori e professori italiani oltreoceano, quindi è un'organizzazione estremamente importante, e proprio con voi è interessante parlare di brain drain, di fuga dei cervelli dall'Italia. Io però, per cominciare, volevo sollecitarvi su uno scritto di Enrico Beltramini, che è uno dei più noti imprenditori italiani a San Francisco, che sull'IMES, in un articolo intitolato L'Italia e la fuga di cervelli vista dalla Silicon Valley, scrive: non si sono impegnati i nostri cervelli in fuga, diciamo, a riformare il sistema, perché l'impresa sembrava superiore alle loro forze, sarebbe loro piaciuto che il sistema fosse diverso, quando hanno capito che diverso non era se ne sono andati. La volontà di azione sta qui, nella fuga. Marisa, cosa ne pensi? Penso proprio che abbia ragione, perché io, quando sono partita dall'Italia la prima volta nel 99, stavo ancora facendo il dottorato a Pisa e avevo finito di fare alcuni studi, quindi ho avuto l'opportunità di venire qui a San Diego, a Scripps, e ho trascorso 9 mesi. E come ha detto Riccardo prima, ecco, mi hanno assegnato per esempio anche a me uno spazio, un computer, e mi hanno dato delle responsabilità, per cui è stato veramente un piacere lavorare qui, dove appunto ti davano valore e a quello che facevi. Poi sono ritornata in Italia, mi sono dottorata e quindi dopo vari mesi di attesa, perché non c'era un posto disponibile, insomma la lista era parecchio lunga nel nostro dipartimento a Pisa, allora ho deciso di accettare l'offerta di ritornare qui a San Diego e lavorare a Scripps. Quando sono venuta di nuovo volevo stare solo 6 mesi o un anno, quindi è stato un continuo sperare di trovare un posto in Italia, ma alla fine non è arrivato, visto che qui ci sono più prospettive. Ho ricevuto i miei progetti, sono stati finanziati dallo Stato americano, per cui... Capisco, è molto semplice. Riccardo, tu cosa dici invece di questa riflessione di Enrico Beltramini? Non sono d'accordo sul fatto che dire l'unica azione è la fuga, perché in realtà, come dice Marisa, molti vanno all'estero per fare un'esperienza e poi al ritorno si trovano i cancelli bloccati, quindi no, io almeno non è che ci abbia provato molto, però molti con cui ho parlato non riescono neanche a tornare per avere l'opportunità di cambiare le cose, perché comunque è tutto chiuso, e quindi non sono d'accordo con Beltramini sul fatto che dire l'unica azione è la fuga. Non è una fuga, è solo una scelta professionale obbligata, tra l'altro, quindi non abbiamo neanche l'opzione di tornare. Chiaramente. Marisa, si parla molto, ne parlavamo anche prima con Riccardo, di circolazione dei cervelli, cioè effettivamente non è sbagliato in sé che dei cervelli, degli scienziati, dei ricercatori escano da un paese, però il problema nasce quando non riescono a rientrare e mi sembra che questo sia il caso dell'Italia, no? Ma infatti, come appunto Riccardo ha detto, io credo che uno dei problemi dell'Italia è che quando uno va fuori e quindi si arricchisce anche a livello scientifico, no, come esperienza, e vuole ritornare in Italia, invece di avere le strade aperte, cioè se le trova chiuse, e questa è la cosa veramente, secondo me, triste, perché io non sarei rimasta, per esempio, io veramente volevo tornare, ma dice, ma sei andata via, quindi hai perso il posto sulla lista d'attesa, cioè queste sono state le parole che mi sono state dette, e quindi dico, ma come, io sono andata, e sì, è vero, si lavora bene qui, però c'è un prezzo, dico, morale e tutto che si deve pagare quando uno va via dal paese d'origine, perché comunque, cioè... Marisa, una cosa però, cosa pensi quando leggi poi sui giornali anche di multinazionali che lasciano l'Italia e chiudono interi settori di ricerca e quindi anche nel privato alla fine si perdono risorse? Questo è, di nuovo, è triste, perché l'Italia secondo me spende un sacco per educarci, perché penso che l'educazione italiana, anzi che si riceveva almeno ai miei tempi, è molto solida, e quando si viene in un altro paese come gli Stati Uniti questo viene riconosciuto, quindi l'Italia spende molto però poi non valorizza chi ha voglia e chi ha talento, c'è poca meritocrazia, direi, e quindi per obligation uno è forzato a lasciare il paese. Grazie a Marisa Roberto in collegamento dalla California. Riccardo, per chiudere, il consiglio che daresti a un tuo giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà, che sta pensando tra le varie vie di uscita anche a un espatrio? Io consiglio, se se ne presenta l'opportunità, di andare e provare, perché non bisogna chiudersi gli orizzonti, bisogna andare, assaporare quello che c'è fuori e poi decidere, fare una scelta consapevole se tornare o no. E siamo giunti allo spazio dedicato alle associazioni e alle iniziative che si occupano di quella che possiamo definire la nuova emigrazione. Riccardo Lattanzi e Marisa Roberto, lo avete ascoltato, fanno entrambi parte di ISNAF, questo importante network scientifico che raggruppa i cervelli italiani oltreoceano. Il professor Vito Campese, presidente di ISNAF. ISNAF nasce su un'iniziativa di alcuni scienziati italiani che operano negli Stati Uniti, in collaborazione anche col consolato italiano di Los Angeles e l'ambasciata italiana a Washington, e nasce con l'idea di intensificare i rapporti scientifici e culturali tra la comunità italoamericana che opera negli Stati Uniti e la comunità scientifica italiana. Ora abbiamo circa 500 iscritti, però c'è un potenziale di 10.000 italiani che operano negli Stati Uniti, quindi noi miriamo a raggiungerli tutti. Quali sono, diciamo, le iniziative, andando nel concreto, su cui state lavorando o avete lavorato nel passato? Noi abbiamo cominciato con stabilire rapporti e con il mondo imprenditoriale italiano e con il mondo politico italiano, e abbiamo tutta una serie di iniziative con alcune industrie italiane di prestigio tipo Eni, con cui per esempio abbiamo stabilito dei rapporti di ricerca nel campo dei biofuels. Adesso Eni sponsorizza delle borse di studio per italiani che stanno operando in San Diego per come trasformare o formare benzina dalle alghe, insomma. La Thales Alenia Space ha anche sponsorizzato borse di studio per la ricerca nello spazio, abbiamo adesso rapporti con il Ministero Ambiente, abbiamo rapporti anche con il Ministero dello Sviluppo Italiano e così via. Professore, il tema dei giovani ricercatori che lasciano l'Italia è sempre al centro del dibattito. Come in qualche modo voi lo vedete? Insomma, c'è un problema Italia in questo senso? Questa storia dei cervelli in fuga è un modo di dire o di vedere le cose che a me non piace. In epoca di globalizzazione i cervelli dovrebbero circolare. Il problema italiano è che i cervelli escono ma poi non rientrano, perché non si fa niente per farli rientrare, perché il circolo della gente è molto importante per lo sviluppo scientifico, è importante che i giovani vengano negli Stati Uniti, abbiano un'esperienza scientifica, culturale in un mondo diverso, però poi bisogna dare possibilità a questi giovani di rientrare. Il problema dell'Italia è che c'è poco, si fa molto poco per la ricerca, soprattutto per i giovani, per sviluppare le possibilità di carriera dei giovani nell'ambito della ricerca. Quindi io non vedo con preoccupazione il fatto che i giovani vadano all'estero ad imparare, questo è un fatto estremamente positivo per loro e per la nazione. La tragedia italiana è che non si fa niente o si fa molto poco per supportare la ricerca e supportare questi giovani o facilitare questi giovani rientro in Italia. Vista dall'America, questa tragedia, come la definisce lei, ha dei nomi, ha dei responsabili, ha dei colpevoli? Politici, numero uno, e l'industria, numero due. L'industria italiana purtroppo investe meno, sempre meno nella ricerca, non capendo che senza la ricerca non c'è sviluppo. Quindi c'è proprio una cecità totale che è veramente preoccupante. O si fa qualche cosa, o si fa rapidamente, oppure io credo che il futuro italiano non sia poi tanto bright, eccellente. L'Italia è tra le nazioni in Europa che investe meno nella ricerca. E per maggiori informazioni potete cliccare su www.isnaf.org. E prima di chiudere questa puntata di Giovani Talenti, apriamo lo spazio Intern Active, una rubrica di confronto online per dare voce a chi di voi è espatriato oppure intende intervenire nelle discussioni che lanceremo settimanalmente. La discussione della scorsa settimana era: come avviare un reale ricambio generazionale in Italia? Come rendere protagonisti i nostri giovani talenti espatriati e quelli rimasti qui? Aldo ci ha scritto focalizzandosi sul mondo aziendale. Dice: il problema della classe dirigente incapace è strettamente legato alla gestione aziendale patriarcale. Mi spiego meglio. Se nell'azienda l'imprenditore è anche il deus ex machina, è sua prerogativa assumere i dirigenti. Spesso lo fa per conoscenza diretta, amicizia, stima, eccetera. Il dirigente, così assunto senza alcun vero merito, non avrà alcun problema nel caso fallisse uno dei suoi compiti. Pertanto, si crogiolerà nella personale convinzione che tanto da lì non lo sposta nessuno e da buon italiano, purtroppo, smetterà di pensare. Di conseguenza, scalzare quei dirigenti diventa un vero rompicapo che rischia solo di far perdere del tempo. Così ci scrive Aldo. Questa settimana vi lanciamo una nuova provocazione, prendendo spunto anche dalle riflessioni di Vito Campese, presidente dell'ISNAF. Quale futuro ha un paese come l'Italia, dove si investe poco più dell'1% in ricerca e sviluppo, meno che in Portogallo, Spagna e Repubblica Ceca, e dove solo 6 aziende figurano nelle prime 100 europee per investimenti in ricerca? Soprattutto, quale futuro hanno i ricercatori e i produttori di innovazione in una nazione che fatica ad attrarre cervelli dall'estero, spalancando invece le porte di uscita a chi se ne vuole andare? Per contattarci potete scrivere a giovanitalenti@radio24.it oppure ci potete cercare su Facebook, nel gruppo Fuga dei Talenti o nella pagina fan Fuga dei Talenti. Esiste anche un gruppo sul portale professionale LinkedIn chiamato La Fuga dei Talenti, dove rilanciamo settimanalmente la discussione. E finisce qui questa puntata di Giovani Talenti. Aspetto allora i vostri contributi online. Vi ricordo infine che questo programma può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Ci sentiamo sabato prossimo alle 15, sempre su Radio 24. Un saluto e un augurio di buona settimana da Sergio Nava.